Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, partiamo subito dalla borsa, che sarà poi un approfondimento apposito, perché oggi Milano va benissimo, allora non solo, non tanto come percentuale, più 2% come rialzo di borsa, ma soprattutto in confronto alle altre borse europee: Parigi più 0,17, Francoforte più 0,20. 9, Londra più 0,80, l'America più 0,60. Che è successo? Sono molto forti alcuni titoli per dinamiche che poi racconteremo nel corso dell'approfondimento di borsa. Penso a Telecom Italia più 8,55%, penso alle indiscrezioni che stanno facendo salire Finmeccanica del 6%, ma Mediolanum che festeggia la raccolta netta con un più 4,5%, Unicredit più 4,5%, tutte le banche ancora ben comprate dopo Basilea 3, ma non solo. Monte dei Paschi più 4,34% come la Popolare Emilia Romagna, il Banco Popolare più 3,90%, Ubibanca più 3,5% e la Pop Milano più 2,70%, bene anche Enel Green Power più 3,5%, Intesa più 2,60%, Mediaset più 2,5%, Impregilo più 2%, Exor e Fiat più 1,70%, Eni più 1,5%. Di negativo c'è pochissimo: Generali meno 0,35% e Buzzi Unice meno 0,75%. Dicevo, al di là della giornata odierna, che comunque conferma un andamento di Piazza Affari da quando è iniziato l'anno e anche negegli ultimi giorni dell'anno scorso, migliore delle altre borse europee, perché da noi le banche pesano di più, questo mini rally, chiamiamolo così, è tutto dovuto o principalmente dovuto al mondo bancario. Ma al di là di questo, dicevo, c'è un dato che oggi riporta anche solo 24 ore. Milano, inteso come Piazza Affari, da luglio, dai minimi toccati a fine luglio, quando era in corso l'attacco all'euro di nuovo, lo spread era 545, ha guadagnato il 40%, ed essendo oggi ampiamente sopra i 17.000 punti, 17.280 punti, la borsa è ai massimi da marzo dell'anno scorso. Pensate che se un risparmiatore avesse investito titoli bancari, nel settore bancario, l'indice settoriale dei bancari, ogni settore ha un suo indice, l'indice settoriale dei bancari ha guadagnato il 70%. Secondo me 70%, non sono ubriaco, non ancora perlomeno, 70% dai minimi toccati sempre a luglio. Ne parleremo nella seconda ora del programma, perché qui c'è soprattutto l'effetto Mario Draghi, quando a luglio annunciò: farò qualunque cosa necessaria per difendere l'euro e sarà sufficiente, credetemi, spiegando ai mercati che ora basta, non era più il caso di scommettere sul crollo dell'euro. Ma c'è anche dell'altro, e chi ha investito in questi mesi scommettendo su tutti i sani che avevano fatturati e utili in aumento, che erano ben posizionati sui mercati, sta guadagnando, e sta guadagnando anche tanto. Questo è un tema. L'altro tema di questo programma è diametralmente opposto. Oggi raccontiamo infatti un mondo diviso tra l'economia reale e l'economia finanziaria. L'altro tema è il dato che già viene anticipato i nostri GR sui consumi, crollati nel 2012, il dato è sui primi 11 mesi, ma ormai insomma ci siamo, crollati a livello più basso dal dopoguerra, una contrazione del 4% in termini reali, quindi al netto dell'inflazione. Può sembrare poco, ma va moltiplicata per centinaia di milioni di acquisti. Ebbene, non si era mai vista dal dopoguerra. La stessa Istat dice che è drammaticamente calato il potere d'acquisto delle famiglie italiane. E allora oggi raccontiamo, come abbiamo già fatto anche altre volte, due mondi diversi: il mondo della finanza e delle aziende quotate, che hanno recuperato il 40% complessivamente da metà luglio, e il mondo delle famiglie italiane, che invece vedono aumentare le difficoltà a mantenere il potere d'acquisto. In alcuni casi il 6% della popolazione non riescono ad acquistare quel paniere di beni minimi e indispensabili, mentre la Coldiretti ci racconta che i consumi di farina sono aumentati del 25%. 349-238-6666 per i vostri sms. Un gallo, lo volete sulla borsa? Diamo questo gallo finanziario alla borsa e poi però iniziamo a raccontare anche il paese reale. Parleremo anche della nomina del nuovo ministro dell'economia e finanze americano. Si chiama segretario del tesoro in America e lui è Jack Lew, profondo conoscitore della macchina politica della Casa Bianca, del Congresso. Lo scontro è fortissimo in questo momento tra Barack Obama e il Congresso per approvare il pacchetto fiscale, la legge finanziaria, chiameremo noi. Meno esperto e meno vicino a Wall Street rispetto ai suoi predecessori. Ha lavorato molto poco in banca, come diremmo noi, nelle banche d'affari americane. A mio avviso non è nemmeno un male. Altre notizie: in Germania la produzione industriale segna un dato inferiore alle attese nel mese di novembre, più 0,2 contro un'attesa di un più 1%. La Germania ha collocato anche debito, cioè ha venduto obbligazioni a 5 anni, i nostri BTP sarebbero, però il rendimento è in rialzo, è salito allo 0,53%. In Grecia invece, su una popolazione di 11 milioni di persone, a fine 2011, quindi il dato è ancora probabilmente va cambiato in peggio, su 11 milioni di persone 3 milioni e 400 mila vivevano sotto la soglia della povertà. Lo dice l'Istat greco, stiamo parlando del 25% della popolazione greca. E il numero delle persone residenti in famiglie senza lavoratori a tempo pieno, cioè in famiglie in cui c'è un lavoro precario o part-time, è passato da 620.000 nel 2010 a 980.000 nel 2011, 300.000 famiglie in più. E poi invece continuano le polemiche in Francia per l'indagine sul ministro del bilancio Jérôme Cusac, quello che ha istituito la tassa sui ricchi, quella che ha fatto scappare Depardieu, ma anche Pinot e altri, Arnaud e altri miliardari francesi. Beh, insomma, è finito in una bella inchiesta, perché occultamento di frode fiscale, ha tentato di nascondere una truffa all'erario, nel caso specifico aprendo un conto segreto in Svizzera. Proprio lui dice: ne uscirò pulito, ce lo auguriamo. Veniamo all'Italia, mentre da un lato abbiamo raccontavamo il dato di cui adesso parleremo sui consumi. L'Istat oggi fa sapere che è migliorato il deficit nei primi 9 mesi, è sceso al 3,7% contro il 4,2%, ma è migliorato grazie alle tasche degli italiani e non grazie ai risparmi nella macchina pubblica. Lo dice l'Istat, non lo dico io. L'Istat scrive: al miglioramento della finanza pubblica ha contribuito soprattutto l'andamento delle entrate tributarie trainato dall'IMU. Tradotto, se il deficit è calato è grazie ai 24 miliardi complessivi che porterà l'IMU. Io avrei preferito anche sentir dire è anche grazie a minori spese della pubblica amministrazione, minori trasferimenti, quant'altro. Vabbè. Ancora, volete sapere sulla vicenda delle ambulanze ferme a Roma? Vi ha aggiornato il nostro GR. In realtà, da quello che si è capito, le 23 ambulanze ferme sono ferme perché i lettini vengono utilizzati per avere pazienti in ospedale. Il direttore del 118 di Roma Capitale, Livio De Angelis, lo ha detto chiaramente: il servizio del 118 è fortemente a rischio. Balduzzi, il ministro della Sanità, ha chiesto una relazione urgente al 118. Renata Polverini ha convocato il direttore generale dell'Ares, Antonio De Santis. Lo ha comunicato una nota dell'ufficio stampa della Regione Lazio. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms. Iniziamo allora a raccontare questa Italia Giano Bifronte, in cui la borsa va benissimo. e invece i consumi delle famiglie italiane vanno malissimo alla luce dei dati dell'Istat, ma non solo. Eh sì, perché da questo punto di vista non c'è solo il dato dell'Istat dove viene fotografato un calo del reddito disponibile con una spesa del 2,2% in calo rispetto allo stesso periodo del 2011, stiamo sempre parlando del terzo trimestre del 2012, ma c'è anche e soprattutto il dato diffuso oggi dalla Confcommercio. Crolla il potere d'acquisto delle famiglie nei primi 9 mesi del 2012 rispetto ai primi 9 mesi del 2011, un meno 4%. Addirittura, se si guarda l'ultimo trimestre a disposizione, cioè il terzo trimestre 2012, siamo a un meno 4,4 rispetto a un anno prima, e Confcommercio dice la flessione che si è avuta a novembre, un altro 3% rispetto a novembre del 2011, porta il 2012 ad essere l'anno più difficile per i consumi dal secondo dopoguerra. E il presidente della Confcommercio, Carlo Sangalli: dati drammatici, occorre cancellare l'aumento dell'IVA. Si aggiunge a questa analisi anche la Coldiretti: taglio della spesa per 6 italiani su 10. Con la crisi non è cambiato solo il menù degli italiani, ma anche ridotte le quantità di prodotti alimentari complessivamente acquistate. E appunto 61 italiani su 100, secondo l'indagine Coldiretti SVG, hanno tagliato la spesa per effetto del crollo del potere d'acquisto. Meno pesce fresco, il 3,5 in meno, meno vino, meno 3%, meno frutta, meno 2%, aumenta invece la pasta e gli gnocchi, più 1,1, e anche le uova, che sono tipicamente prodotti, diciamo, a basso costo. Tra l'altro, su tutto questo c'è anche un dato, a mio avviso, molto, molto curioso, se vogliamo metterla così. Le Coop fanno sapere che ormai gli italiani che utilizzano i punti nell'acquisto di prodotti non li usano più per i premi, cioè per comprare, come voi sapete, gratis o quasi gratis alcuni premi messi a disposizione, ma li utilizzano per gli sconti, quindi direttamente per pagare meno le cose necessarie. E poi la farina, più 25%, anche qui dicono le Coop, segno che ormai il pane e i biscotti li facciamo in casa. Un dato ulteriore, ma che fa sempre parte di questa fotografia, quello diffuso oggi da Terna, e quindi chi gestisce la rete elettrica nazionale, sostanzialmente abbiamo un calo del 2,8% rispetto al 2011 nei consumi elettrici. Ce n'è abbastanza per parlarne, innanzitutto con Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio. Buonasera, direttore. Buonasera. Dicevo, ce n'è abbastanza per parlarne con lei. Insomma, voi, mi sembra che intanto questi dati sono relativi ai primi 9 mesi. Lo dico perché nell'ultimo trimestre gli italiani hanno pagato anche la seconda tranche dell'IMU, e immagino che da lì voi vi aspettiate anche dati ulteriormente negativi. Certo. Ma voi puntate l'indice soprattutto sull'IVA, ho capito bene? Sull'aumento dell'IVA? Noi siamo preoccupati per il problema dell'IVA futura, ma siamo oggettivamente preoccupati anche sull'incremento di gettito e quindi sulla riduzione di reddito disponibile e quindi di consumi derivante dall'ultimo incremento dell'IVA, che è quello del 17 settembre 2011, che si è visto soprattutto, cioè per 9 mesi e mezzo, nel corso del 2012. Ma comunque in realtà è il complesso degli incrementi di imposta che si sono fatti sentire nel 2012 che ha prodotto questo calo, che non lo diciamo noi, ma è anche certificato nei primi 9 mesi dell'Istat, sarà il calo peggiore nella storia repubblicana in termini di consumi reali. E quindi IVA da un lato, ma andamento della congiuntura economica dall'altro. Dicevo, vi attendete che il dato sull'ultimo trimestre, inclusi i saldi, cioè le spese natalizie e poi gli eventuali saldi, sia anche peggiore vista l'IMU? Diciamo diciamo che dal punto di vista, come dire, della logica economica, l'IMU sì viene pagata per cassa a dicembre, però si presume che le famiglie, sapendo che devono pagarla, abbiano risparmiato durante tutto il corso dell'anno. Quindi noi ci aspettiamo un quarto trimestre molto negativo, ma in linea con i tre precedenti trimestri, in maniera tale sostanzialmente da chiudere come dato ufficiale, non come ICC, a circa meno 4% in termini reali i consumi. Meno 4% in termini reali vuol dire al netto dell'inflazione, giusto? Esatto, cioè abbiamo già tolto l'incremento dei prezzi. Comunque ci sarebbe in ogni caso una riduzione anche in termini nominali di oltre un punto e mezzo. Vabbè, comunque non interessa il termine reale, cioè è chiaro che se c'è l'inflazione sembra che tu abbia speso di più, in realtà levi l'inflazione e ti accorgi che hai speso il 4,5%. Ecco, 4,5%, però vedo anche degli sms che dicono, insomma, per carità non è un bel dato, ma non facciamone un dramma. In realtà forse è il caso di chiarire che nel mondo dei consumi gli scostamenti non sono come in borsa, in cui uno può fare più 6, meno 10, cioè il 4% è la media di che cosa, Bella? Di milioni di oggetti, miliardi di atti d'acquisto di servizi e su 12 mesi per 60 milioni di italiani, 25 milioni di famiglie. Un dato di questo genere non si è mai visto dal secondo dopoguerra ad oggi. Il dato peggiore fu nel 93 con un meno 3, un meno 4 non si è mai visto, non solo, ma questo meno 4 viene dopo le riduzioni del 2008 e del 2009, quindi vedrà che dal punto di vista mediatico qualcuno magari esagera anche perché interpreta male certe indicazioni, ma dal punto di vista delle persone, degli ascoltatori, dei cittadini, e la drammaticità l'hanno vissuta tutta. Consideriamo soltanto il dato sulla povertà: le persone assolutamente povere, cioè quelle che non possono comprare, secondo l'ISCAT, secondo l'Ufficio Statistico Commercio, un paniere minimo di beni e servizi di sussistenza, sono passati tra il 2007 e il 2011 da 2 milioni e mezzo a 3 milioni e mezzo, più 40%. Cioè un milione in più di persone che non possono comprare beni minimi. L'Istat dice che sono il 6% della popolazione ormai. Sì, quindi 8,8 in area 4, per esempio, nel sud dell'Italia. Io credo che questi siano dati non drammatici dal punto di vista degli slogan, ma questa è una realtà alla quale effettivamente non eravamo abituati, e anche gli analisti economici sono un po' sorpresi della gravità della situazione. Della frenata. Sì. Cioè voi, nemmeno voi, che lei appunto, facendo il direttore del centro studi Confcommercio, analizza i dati, raccoglie tutte le indicazioni che arrivano dal mondo del commercio, nemmeno voi vi aspettavate una frenata così forte? Io fino a 3 mesi fa noi dicevamo meno 3,3, ora stiamo a meno 4 e si può anche andare peggio. Senta, non voglio sembrare Maria Antonietta, quanto ha pesato anche l'elemento psicologico? Allora, è chiaro che se i soldi non li hai, se hai il marito in cassa integrazione, se il tuo figlio non riesce a trovare lavoro o viene pagato 800-700 euro al mese, qui non è un problema di percezione, qui è il problema dello spessore del portafoglio. Sì. Però vorrei capire se il peggioramento, secondo voi, è avvenuto anche su una necessità di risparmiare, perché la situazione continua a non migliorare, e l'Istat dice che è leggermente aumentata la propensione al risparmio delle famiglie, oppure se invece è tutto materiale, cioè non è solo psicologico, ma è tutto di... Allora, secondo la mia interpretazione, fino a novembre 2011, cioè fino a 2 mesi fa, è tutto materiale, tutto oggettivo. Cioè non c'è, cioè, diciamo, la causalità va dalla riduzione dei consumi alla riduzione della fiducia, non dalla riduzione della fiducia alla riduzione dei consumi. Ma nel futuro prossimo non è detto che questo non avvenga, perché ora la fiducia è ai minimi, a un certo punto si innesta il meccanismo contrario, e quindi noi ci aspettiamo anche i primi 9 mesi del 2013 molto difficili, questo sì, a causa dell'effetto fiducia. Cioè, allora mi faccia capire, lei dice adesso i consumi sono calati come mai è successo dal dopoguerra, perché mancavano i soldi, traduco in maniera un po' brutale. Meno 4,8 il reddito disponibile. Meno 4,8% del reddito disponibile degli italiani. Questo però ha innescato anche un atteggiamento psicologico di sfiducia nel futuro. Esatto. Quindi potrebbe anche darsi che, anche se non si dovesse ridurre il reddito disponibile nei prossimi mesi, il venire meno della fiducia, quindi la componente psicologica, porti a un ulteriore calo nei consumi, ho capito bene? Esattamente. Come si inverte, Bella, una situazione del genere? Come si innescata, se, al di là dei problemi strutturali da evitare, e quelle sono riforme di lungo termine, come si è innescata? Cioè riducendo la pressione fiscale. Come si riduce la pressione fiscale? Lotta all'evasione e restituzione immediata ai cittadini in regola attraverso la riduzione delle aliquote legali e dei maggiori proventi, e poi controllo della spesa pubblica. Niente timidezza nella spesa in rendita, si deve andare avanti sul tracciato. Quindi taglio della spesa pubblica improduttiva, la spending review, questo è, e tornare a liberare risorse abbassando le tasse per chi le tasse le paga, e invece non ci sono alternative. Non c'è nulla, me lo chiedono gli ascoltatori, che il mondo del commercio in sé possa fare, non so, sui margini di guadagno, sulle promozioni. Dunque, mi pare che oggi il dato dell'ISCAT dica che sulle imprese, le società non finanziarie, cioè le imprese effettive, le imprese reali, hanno avuto una riduzione dei margini per i tre trimestri del 2012, qualcosa come il 9% nominale, quindi il reale è meno 12%. Siccome eravamo andati male negli ultimi 4 mesi, meno 12, si può chiudere, ecco. Meno 12% è la riduzione dei margini degli utili reali nelle imprese del commercio. Di tutte le imprese, noi il commercio non ce l'abbiamo distinto, ma ovviamente il commercio sta lì. E anche voi notate, per concludere, Bella, che calano soprattutto quei beni che sono, mi dispiace dirlo, sinonimo di povertà, cioè aumentano gli acquisti di quei beni, significano povertà, farina, pasta, e calano quelli, insomma, più sinonimo di ricchezza, come pesce fresco e quant'altro. Cioè, vi ritrovate nell'indagine col diretti SVG? Francamente, a questo punto il fatto che aumenti la farina ha un'interpretazione molto debole. Diciamo che se guardiamo le 56-60 categorie dell'Istat, facciamo prima dire quelle che crescono che quelle che diminuiscono, cioè sostanzialmente ancora tiene la telefonia e l'area dei medicinali e i servizi domestici e l'assistenza sociale. Stop. Le altre 52-56 diminuiscono tutte. Grazie, in bocca al lupo a tutti i suoi associati e chiaramente anche con questi numeri al direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, Mariano Bella. A presto. Sì, vedo che molti, oltre a scrivere sul tema, hanno anche ricordato, ma insomma, dite sempre che la borsa anticipa il ciclo, vale anche questa volta, ma personalmente no, secondo me ha recuperato i minimi che aveva toccato nella fase di attacco più speculativo all'euro, con titoli che obiettivamente quotavano, visti i risultati di bilancio, quotavano e avevano prezzi non giustificati. Però ne parleremo nella seconda ora del programma con chi tutti i giorni investe, raccoglie risparmi di persone che ne hanno tanti e li investe comprando direttamente aziende oltre che in borsa. Adesso però c'è il meteo, la pubblicità, poi parliamo della borsa di Milano che ha chiuso sui massimi, quasi più 2,21%, fortissima Telecom Italia più 8,80%, ma anche Finmeccanica più 6,30% e tutte le banche, dimenticavo, potete comunicare con il programma anche tramite Facebook. Arriviamo alla borsa, ottima la giornata, dicevo, oggi, ma anche perché l'ennesima buona giornata in cui Milano guadagna più delle altre borse europee, però prima di tutto vorrei occuparmi di un tema molto delicato, nel senso che riguarda i destini non solo dell'America, ma in generale anche della finanza globale, ossia di chi, dell'uomo più potente dopo Barack Obama sulle dimensioni economico e finanziarie negli Stati Uniti, il segretario al tesoro, come si chiama in America, il ministro all'economia, come si chiamerebbe da noi. E quindi spostiamoci per un po' di là dell'Atlantico e parliamo di nomine, della nomina. Eh sì, domani il presidente americano Barack Obama annuncerà ufficialmente la nomina di Jack Lew come segretario al tesoro. Segretario al tesoro, per chi non lo sapesse, è il ministro dell'economia e delle finanze americano. Lew è l'attuale capo dello staff della Casa Bianca, 57 anni, aiutante dell'ex speaker della Camera Tip O'Neill e due volte direttore dell'Office of Management and Budget della Casa Bianca. Non è coinvolto direttamente nelle trattative per evitare il pericolo, il fiscal cliff, come si chiama in genere, il precipizio fiscale. Le critiche arrivano sui suoi limitati rapporti con Wall Street. I mercati non è che abbiano molto apprezzato, ha trascorso infatti lui la maggior parte della sua carriera all'interno del governo, solo una piccola esperienza a Wall Street come direttore di managing director di Citigroup. Ora, non è che la cosa sia necessariamente negativa, anche perché i nomi che erano circolati, Jamie Dimon, ex anzi amministratore delegato di JP Morgan, molto coinvolto diciamo anche in quello che è successo col crack poi del 2008 a Wall Street, per non parlare di Lawrence Fink, numero uno di BlackRock, uno dei più grossi, il più grosso fondo di private equity al mondo, ma anche l'eredità di Timothy Geithner non è stata a mio avviso delle migliori. Harry Paulson, il suo predecessore, era amministratore delegato di Goldman Sachs. Insomma, cioè, vediamo da anni un connubio un po' strano tra i segretari e i ministri dell'economia americani che vengono spesso dalle banche d'affari in cui poi ritornano, e devo dirlo, le stesse banche d'affari che sono all'origine di questa maledetta crisi che qui continua a non passare, a cambiare forma. C'è un bellissimo passaggio in quel bellissimo film premiato come Oscar per il miglior documentario nel 2011, Inside Job, ogni tanto lo facciamo sentire, il regista è Charles Ferguson. Questo è un passaggio che riguarda proprio il rapporto tra gli uomini di Obama, della finanza e dell'economia, e Wall Street, quella Wall Street che avrebbero dovuto riformare. L'era dell'avidità e dell'irresponsabilità di Wall Street e di Washington ci ha portato alla crisi finanziaria più grave mai avuta dalla Grande Depressione. Quando arrivò la crisi, poco prima delle elezioni del 2008, Barack Obama evidenziò come i fallimenti di Wall Street fossero degli esempi per il bisogno di cambiamento in America. La negligenza di Washington e di Wall Street è ciò che ci ha condotto a questo disastro. Dopo essere stato eletto, il presidente Obama parlò di riforme dell'industria finanziaria. Vogliamo un regolatore di rischi e dei requisiti patrimoniali. Abbiamo bisogno di proteggere i consumatori. Cambierò la cultura di Wall Street. Ma quando le riforme vennero messe in atto nella metà del 2010, si rivelarono deboli. E per alcune aree critiche, come le agenzie di rating, le compensazioni e il lobbying, non fu proposto niente di significativo. Obama scelse Timothy Geithner come segretario al tesoro. Geithner era il presidente della New York Federal Reserve durante la crisi e una delle persone chiave nel decidere di pagare la Goldman Sachs per le sue scommesse contro i mutui. Come nuovo presidente della Federal Reserve fu eletto William C. Dudley, ex capo economista della Goldman Sachs e coautore di un articolo che lodava i derivati. Capo del personale Mark Patterson, un ex lobbista per la Goldman. Come senior advisor fu scelto Lewis Sachs, un sovrintendente della Tricadia, una compagnia coinvolta pesantemente nelle scommesse contro le azioni dei mutui che vendeva. A guidare la Commodity Futures Trading Commission, Obama pose Gary Gensler, un ex dirigente della Goldman Sachs, che aiutò ad abolire la regolarizzazione dei derivati. Come capo della commissione per i titoli e gli scambi, Mary Shapiro, ex amministratore delegato della FINRA, il corpo di autoregolamentazione dell'industria bancaria di investimento. Il capo dello staff di Obama, Rahm Emanuel, guadagnò $320,000 nel consiglio della Freddie Mac. Sia Martin Feldstein che Laura Tyson sono membri del consiglio consultivo della ripresa economica. E il capo consulente economico di Obama è Larry Summers. Chiaro, il riferimento è alla precedente amministrazione Obama, ma insomma, noi parliamo spesso di conflitto di interessi in Italia, non è che si scherzi in America. Sarà forse per questo che una vera, incisiva riforma di Wall Street non è stata fatta? Sarà forse perché c'erano troppi uomini che venivano dalle banche d'affari americane e che lì probabilmente sono tornate? Sarà che è difficile chiedere al tacchino di anticipare la festa del ringraziamento o il Natale? La domanda la giro al corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, Mario Platero. Buonasera Mario. Buonasera, buonasera Sebastiano. Tra l'altro forse sentirete una voce di sottofondo, perché in realtà in questo momento non sono a New York ma a Las Vegas e all'aeroporto di Las Vegas. Pure il gioco d'azzardo, va bene Platero, continuiamo così. Continuiamo. Visto che parli di Wall Street e che mettiamo in gioco dietrologie, mi sembrava logico portare Las Vegas in ballo. No, non mi trovo d'accordo, perché in America c'è trasparenza in realtà, i conflitti di interesse sono regolati e dunque nel momento in cui una cosa, diciamo così, non funziona, a quel punto viene subito rimessa a posto, la persona dà le dimissioni e si procede. Ma veniamo al rapporto, alla nomina. No, ma anche al rapporto, adesso arriviamo alla nomina, Mario, ma il rapporto Wall Street amministrazione Obama, secondo te è stato così stretto da impedire una vera riforma incisiva sulle banche d'affari, tornare al Glass-Steagall Act, guarda, separare la banca d'affari dalla banca di... Lo stesso presidente avrebbe voluto forse una riforma più incisiva. C'è un grosso dibattito per capire se nell'economia globale si può tornare indietro dove eravamo negli anni 30 con la Glass-Steagall Act, oppure se bisogna trovare un compromesso perché le cose funzionino in un contesto di meno regole. Per ora, e su questo sono d'accordo con te, continuano ad esserci dei problemi speculativi e dunque ci si augura che le cose possano essere rimesse a posto. Veniamo invece a Jack Lew. Il fatto che lui sia percepito come lontano da Wall Street, perché ha avuto pochissimi rapporti con il tempio, chiamiamolo così, della finanza americana, a parte una breve esperienza di nemmeno 2 anni come managing director di Citigroup, lo renderà secondo te più super partes, meno in qualche modo vicino alle esigenze dei banchieri di Wall Street, oppure gli renderà più difficile il compito perché li conosce meno e li capisce meno? Ma guarda, la situazione è che Jack Lew è un insider del governo, ma anche un po' un insider di Wall Street, perché ha lavorato 3 anni a Citigroup, ha avuto contatti con Wall Street e di New York, si è laureato a Harvard, insomma ha comunque dei contatti con Wall Street. Ma è l'uomo giusto al momento giusto per Obama, perché ha grossa esperienza di bilancio. Ricordiamoci, Obama è la più grossa mina vagante del presidente americano in questo momento, e la soluzione per la seconda parte del fiscal cliff. Per ora abbiamo soltanto risolto la parte relativa agli aumenti delle tasse che sono stati eliminati, ma manca il taglio della spesa, mancano tutta una serie di provvedimenti che riguardano per esempio il tetto sul debito. Abbiamo delle scadenze, 3 scadenze precise nel giro di un mese, tra la fine di febbraio e la fine di marzo. Jack Lew è la persona adatta, conosce il congresso, è stato capo di gabinetto con Tip O'Neill e quindi ha negoziato molti anni fa con Reagan un compromesso sul bilancio. È un uomo che ha avuto delle esperienze come capo del bilancio con Bill Clinton. Ecco Mario, mi sembra di capire dal tuo racconto che Jack Lew dovrà occuparsi molto più di budget, di bilancio, come si dice da noi, e appunto di evitare fiscal cliff, ma anche di avere un rapporto migliore col congresso, che non di riformare Wall Street rispetto a quando arrivò Timothy Geithner. Assolutamente, la scadenza più immediata riguarda il rinnovo del tetto sul debito, riguarda il compromesso con i repubblicani. Sarà, ti anticipo Sebastiano, una battaglia durissima, feroce, una battaglia politica in cui Obama si giocherà il tutto per tutto, in cui probabilmente deciderà di utilizzare i poteri speciali che gli consentono di scavalcare il congresso. Quindi insomma Jack Lew interviene come elemento di riequilibrio, conosce i repubblicani, ha lavorato al congresso, come capo di gabinetto ha negoziato personalmente quest'ultimo compromesso, dunque è un uomo che viene scelto più per le sue doti politiche, se vuoi, che per le sue doti finanziarie, e anche perché è un fedelissimo di Obama. Una osservazione: le ultime nomine di Obama sono state tutte da persone che arrivano dalla Casa Bianca. Brenner, per esempio. Certo. Brenner è stato nominato alla CIA. Jack Lew viene dalla Casa Bianca, era capo di gabinetto. Brenner è il numero 2 di Tom O'Donnell. Certo. Cioè, quindi Obama si sta circondando dei suoi fedelissimi, ma hai fatto bene, Mario. Anche John Kerry, il segretario di Stato, è molto vicino a Obama. Insomma, Obama non vuole avere persone che magari lo disturbino, come poteva essere in un primo mandato Hillary Clinton. E questo sarà interessante da seguire come si svilupperà. Hai fatto bene anche a chiarire che in questo momento appunto il vantaggio di avere uno come Jack Lew è la sua conoscenza dei rapporti col congresso, della Casa Bianca, della macchina politica, diremmo da noi, delle commissioni parlamentari, più che i suoi rapporti con Wall Street e la sua conoscenza della finanza in senso stretto. Grazie a Mario Pratero in collegamento con noi da Las Vegas. Mai vinto qualcosa almeno? Grazie a voi, zero. Seguivamo solo prodotti elettronici. Ah, perché sei lì con il nostro Pagliarini a vedere la più grande fiera al mondo di tecnologia. Grazie Mario Pratero. Grazie a voi. E dal prossimo, domani, ministro dell'economia e delle finanze degli Stati Uniti alla borsa italiana come promesso, per poi tornare anche invece sul calo dei consumi elettrici, altro indicatore del calo complessivo dei consumi, della difficoltà che attraversa il paese, e della borsa più in prospettiva visto l'andamento dai minimi di luglio, più 40% Piazza Affari. Oggi un altro mattone di rialzo, più 2,20%, la miglior borsa in Europa. Parigi ha fatto più 0,31 come Francoforte, Londra ha fatto più 0,70, l'America più 0,60. Le banche, che sull'indice italiano pesano più che in altri indici, hanno contribuito non poco, ma anche e soprattutto hanno contribuito Telecom Italia più 8,80, Finmeccanica più 6,30% e Mediolanum più 4,90%. Eccoci di nuovo in diretta per parlare di borsa. Dicevo, al di là dell'analisi che faremo più avanti, oggi un'altra ottima giornata di titoli negativi, solo Buzzi Unice meno 0,56%. Borsa sia. Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, le banche ormai è da quando Basilea 3 è stato ammorbidito che continuano a correre, le archiviamo così? Sì, più o meno archiviamole così, oggi si sono tutte riscattate, rialzi come hai detto tu molto consistenti, Unicredit ha fatto quasi più 5%, poi anche la stessa MPS più 4,88%, la Popolare dell'Emilia Romagna più 5,1%, sono andate tutte bene, peraltro anche nel resto d'Europa hanno fatto molto bene. E allora le ricordo rapidamente: Popolare Emilia Romagna più 5,14, Monte dei Paschi più 4,90, Unicredit più 4,80, Banca Popolare più 4,56, Ubibanca più 3,80, Popolare Milano più 3,40, Intesa San Paolo più 2,5%. E poi veniamo invece ai casi veri di borsa. Telecom Italia più 8,80%. Qui c'è il Financial Times. Esatto. Infatti il mercato si sta interrogando su quello che sarà il futuro della compagnia di TLC, visto che il Financial Times ha riferito di un incontro riservato tra il commissario europeo alla concorrenza Almunia insieme ai vertici dei big delle aziende europee, ovvero Telefonica, Deutsche Telekom, France Telecom e ovviamente anche la stessa Telecom Italia. Pare che sia allo studio la creazione di una rete delle telecomunicazioni a livello europeo e quindi questo ha dato in là una serie di ordini in acquisto, ma ricordiamo peraltro che le Telecom Italia si attestano su livelli molto, molto bassi, oggi hanno recuperato quota 0,75 euro, ma ieri avevano chiuso al di sotto di 0,7 euro, quindi è bastata una notizia positiva per incoraggiare gli ordini in acquisto. Peraltro poi va ricordato che il 17 di gennaio si terrà un consiglio di amministrazione della compagnia e magari verrà fuori qualche novità. Ancora, per quello che riguarda i titoli oltre a Telecom, Finmeccanica, qui tornano, ormai è una specie di saga, ma insomma, le indiscrezioni, se ho ben capito, sul fatto che la cessione di Ansaldo Energia potrebbe subire un'accelerazione, no? Almeno secondo quanto sostiene quest'oggi il quotidiano Il Messaggero. Pare infatti che gli advisor dell'operazione stiano aspettando nei prossimi giorni delle proposte vincolanti e quindi si accelerano i tempi. Nei giorni scorsi e nelle scorse settimane era emerso che le cessioni, soprattutto la cessione di Ansaldo Energia, sarebbe slittata probabilmente a dopo le elezioni, invece stando ai termini riferiti appunto dal Messaggero potrebbe venire addirittura prima e quindi sulla scorta di questa ipotesi le azioni si sono riscattate al rialzo. Ancora sempre sulle scadenze a breve, il 12 gennaio come abbiamo raccontato scade il lock-up la clausola di il patto che tiene assieme gli azionisti di Alitalia, sono liberi di fare quello che vogliono delle loro quote. C'è un titolo, è quello di Roberto Colaninno, IMSI, che controlla anche Piaggio, ma ha il 7,7% di Alitalia, e lo guardiamo per vedere su cosa scommette il mercato, nonostante le smentite ufficiali di Alitalia e di Air France. IMSI oggi non è che ha fatto granché, nel senso che ha fatto più 1,45%, ma l'1,45% di oggi va sommato alla performance dei giorni precedenti, non tanto quella di ieri quanto quella di due giorni fa. Le azioni erano letteralmente schizzate sull'ipotesi che ci siano trattative in corso con Air France. Ora pare che in verità, anche secondo articoli di stampa, sia stata gettata un po' acqua sul fuoco su tale ipotesi. D'altra parte il mercato tiene d'occhio la società e sembra, a giudicare dalla performance di mercato, che qualcosa stia per avvenire. Peraltro anche i volumi scambiati su IMSI sono stati consistenti. Altra notizia di cronaca di questi giorni: ieri abbiamo avuto un approfondimento apposito, le generali che aumentano la loro presenza nell'est Europa e anche in Russia. Oggi il titolo mi è sembrato più debole, ieri sì, sarà mosso bene. In effetti le generali, fino a poco prima che chiudesse la borsa, erano addirittura negative, erano uno dei pochi titoli, diciamo, in controtendenza rispetto al listino. Poi sull'esuberanza di tutta Piazza Affari hanno chiuso con un progresso dello 0,2%, che però è poca cosa proprio in confronto al rialzo di oltre il 2% del FTSE MIB. Questo perché oggi si accendono i riflettori sul fatto che il leone di Trieste si rafforza sì nell'est Europa, d'altra parte dovrà pagare oltre 2,5 miliardi per rilevare la quota della joint venture in mano al finanziere Kellner, la joint venture PPF. Allora, c'è chi vuole dire, non ho ricordato che Monti era la Goldman Sachs. Sì, parlavamo della Goldman Sachs in America, comunque Mario Monti lo sanno tutti, così come Mario Draghi ha avuto un rapporto con la Goldman Sachs. Dopodiché non è che lavorare per la banca d'affari sia un male, ci mancherebbe. Abbiamo solo detto, mi riferisco all'intervento con Mario Pratero, che la riforma di Wall Street, quella che punterebbe a tornare al Glass-Steagall Act, comunque a separare la banca che raccoglie i soldi dai risparmiatori dalla banca che investe e correttamente fa anche speculazione, quella riforma non si è ancora vista. Cito, Pratero diceva, non è possibile tornare indietro in una finanza globalizzata come non lo era invece 30-40 anni fa. Perfetto, aggiungo io, non si può però nemmeno lasciare che le banche tornino a fare tutto insieme, a prendersi dei rischi su prodotti che non sono da demonizzare in sé, lo dico a chi dice lei ce l'ha sempre con i derivati. No, se sono utilizzati bene, come qualunque cosa, no? Qualunque medicina, se ne prendi troppo non è più una medicina, t'avvelena. Ecco, la stessa cosa sono i derivati. Creare quella montagna di carta ci ha portato alla più grossa crisi finanziaria e poi economica e poi occupazionale e poi dei consumi dal 29 in poi. Vorremmo vedere una riforma, se no le banche, come lo scorpione di Esopo, torneranno, le banche d'affari americane non solo, a fare esattamente quello che facevano prima, perché come dice Esopo è l'istinto. Chiudo e torno invece sulla borsa. Eleonora, Mediolanum oggi ha festeggiato un record nella raccolta, Infatti anche le azioni in borsa sono più 4,87. State ben comprate, hanno accelerato soprattutto dopo la notizia che la società ha fatto un record nella raccolta netta di dicembre, raccogliendo appunto 412 milioni. E anche nell'intero anno, nell'intero 2012, il bilancio è assolutamente positivo, la raccolta si è portata infatti a 2,3 miliardi. Ancora molto bene oggi, tra gli altri, Enel Green Power più 4,15%, e ancora Impregilo più 2,36, Exor più 2,12, Fiat più 1,90%, Prysmian più 1,80, Azimut più 1,70, Eni pure più 1,70, A2A più 1,70, Fiat Industrial più 1,60 come Terna. Ebbene anche Mediaset più 2,80%. Mediaset. Sì, Mediaset continua a salire inesorabilmente ormai dal giorno soprattutto in cui è sceso in campo nell'ambito della politica Silvio Berlusconi. Si è trattato del weekend dell'8-9 di dicembre, diciamo dall'apertura del 10 dicembre le azioni hanno ormai registrato un progresso del 30% contro quello del 12,8% registrato nello stesso periodo dal FTSE MIB. Ok, meglio della media di mercato. Poi ognuno il la doppio, pensi, più del doppio della doppio, media, certo, di mercato. Poi ognuno la pensi come vuole, ma questi sono dati, vi prego, non buttate tutto in politica. È chiaro che c'è una relazione tra l'aspetto politico del proprietario di Mediaset e l'andamento in borsa, ma non lo dico io, lo dice la borsa. Allora, o ci mettiamo d'accordo su questo, oppure non ci capiamo più. I migliori e i peggiori, Sintesi più 27,24%, Crespi più 19,14%, Ross più 11%, Seat pagine gialle più 10,20%, Poligrafici Printing più 9,90%, Pininfarina più 9% come Ion Renewables, e poi le Telecom Italia. I peggiori invece in assoluto, Ergi Capital meno 17,90%, SNAI meno 5%, Cell Therapeutic meno 4%, Zucchi meno 2,60%, Autostrade Meridionali meno 3,12%, Piaggio meno 2%. Grazie a Eleonora Micheli e a Radio Corriere sulle 24 ore. E adesso invece, come vi ho annunciato, continueremo a alternare l'Italia reale, non che la borsa non sia Italia reale, perché sono guadagni in borsa, recupera i soldi che aveva perso, anche quello è un recupero reale, però diciamo la parte finanziaria del paese, la borsa, più 40% da luglio, più 70% nei titoli bancari, con la crisi dei consumi più grave dal dopoguerra, dato dell'Istat, non della Confcommercio, supportato poi dall'analisi della Confcommercio, da Coldiretti, delle Coop che dicono la frena più 25%. C'è un altro dato che è uscito sempre oggi, riguarda i consumi di energia elettrica, lo dico perché è un indicatore molto importante per capire come va un paese. Meno le industrie producono, meno energia utilizzano, e più le famiglie sono in difficoltà, più stanno attente alla bolletta elettrica. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Prima di arrivare all'ultimo tema, cioè come mai la borsa italiana ha fatto questo recupero e quali sono le prospettive, vorrei invece alternare, come stiamo facendo da un'ora, l'altro tema, e quindi calo dei consumi, famiglie in difficoltà, dice la Confcommercio, mai così male i consumi reali al netto dell'inflazione dal dopoguerra, l'Istat, lo ricordavamo, segnala un 6% di persone che non arrivano a comprare i beni di prima necessità, male tutti gli indicatori, è arrivato anche quello della Coldiretti sull'aumento dei consumi di pasta, gnocchi e pane, calo brusco dei consumi di pesce fresco, quello della Coop sull'aumento della farina più 25% per farsi il pane in casa, e anche il mondo dell'elettricità, dei consumi elettrici, segnala una frenata. Ripeto, è un indicatore che viene utilizzato molto anche dagli economisti, perché è un indicatore fondamentale di quella che si chiama, da un lato, l'attività produttiva, quanto a che regime stanno girando le imprese, più produci più consumi elettricità, ma anche sui risparmi delle famiglie. 349-238-6666 per i vostri SMS e poi Facebook. Lo ha segnalato Terna, e quindi il gruppo che gestisce la rete elettrica nazionale, flessione del 2,8% nel 2012 per i consumi elettrici, è il calo più consistente da inizio secolo nei consumi di elettricità dopo quello del 2009. Ma l'allarme lo ha lanciato anche Assoelettrica, e quindi l'associazione che riunisce tutte le imprese e le società del settore. Siamo in collegamento con il presidente Chicco Testa, buonasera. Buonasera. A crollo dei consumi, addirittura voi arrivate a dire settore in crisi. Prima domanda, si ritrova con quello che ho detto, cioè sì. Sostanzialmente voi siete un indicatore fondamentale di come va il ciclo economico. Assolutamente, noi ci muoviamo, diciamo, quasi insieme al PIL, e le nostre variazioni sono variazioni non grandi ma molto significative, cioè non facciamo meno 10, meno 15, perché se facessimo dei numeri così saremmo veramente al crollo economico, ma una flessione del 3% nei consumi di energia elettrica è una flessione molto molto importante. Che è un po' il ragionamento che facevamo prima con la Confcommercio, attenzione, un meno 4% nei consumi reali sembra poco rispetto ai valori di borsa, no, ma è tantissimo. È un sacco di roba, perché siamo tornati indietro di 10 anni e noi consumiamo tanta elettricità quanta ne consumavamo nel 1994. E nel 94 c'è chi direbbe non si stava poi così male, fu la battuta di Tremonti. Sì, va bene, però, stiamo sempre parlando di un paese sviluppato, non stiamo parlando di un paese centrafrico, d'accordo? Però, però il salto della quaglia è stato fortissimo. Senta, Testa, lei ha detto però oggi, come presidente di Assoelettrica, attenzione perché qui va in crisi, oltre che esserci una fotografia di una Italia in difficoltà, sia produttiva che nelle famiglie, ma va in crisi anche il vostro sistema. In che senso? Ma allora, intanto sono tre fattori, no? Cioè, la crisi economica in generale. C'è una crisi economica particolarmente forte nel settore industriale, che sono i primi consumatori di elettricità. C'è un fenomeno di delocalizzazione di imprese che vanno da un'altra parte, un nome per tutti, l'Alcoa, che da sola consuma un paio di miliardi di kilowattora. Siamo quasi all'1% del totale dei consumi elettrici italiani. Ovviamente questo significa che gli impianti, l'effetto onda è tale per cui anche in conseguenza di altri fattori che adesso non sto a toccare, le centrali italiane lavorano al di sotto, in gran parte al di sotto delle ore sufficienti per portarle in pareggio economico, cioè perdono quattrini e paradossalmente perdono quattrini quelle centrali, le più nuove, i famosi cicli combinati a gas che tutta Europa ci invidia perché sono tra le più moderne. Si erodono naturalmente a questo punto i margini delle imprese, quindi molte imprese stanno pensando a misure straordinarie, diciamo, che sono tipiche di soluzioni di crisi. Le faccio quindi, lavorando sotto regime, è chiaro che non coprono i costi, diremmo, se fossero, esatto, se fossero un un'altra cosa, Testa, però alcuni ascoltatori scrivono, ma non è che su questo calo, al di là dell'Alcoa, che lei ci ha ricordato pesa per l'1% dei consumi totali, ma sia dovuto all'utilizzo anche del fotovoltaico, dell'efficienza energetica, cioè no, virtuoso? Ma no, l'efficienza energetica ha pesato fino a un certo punto, il fotovoltaico ha pesato, pesa molto, diciamo, mi pare che copre un 6-7% dei consumi nazionali e quindi è un 6-7% che viene sottratto al tradizionale settore termoelettrico, il che andrebbe bene se non ci fosse un piccolo problema, che questo fotovoltaico ci costa la bellezza di 6 miliardi e mezzo all'anno di incentivi che paghiamo sulle bollette, per cui ci troviamo con un paradosso, che i consumi diminuiscono, le centrali non lavorano, ma i prezzi dell'energia elettrica aumentano per via degli incentivi. Quanto pesano sulla bolletta gli incentivi al fotovoltaico? 6 miliardi e mezzo all'anno totali sul conto degli italiani. Non è poco, No, è questo è il motivo principale, secondo lei, per cui la bolletta continua a essere così cara? Nell'ultimo periodo la bolletta è aumentata esclusivamente per via dei cosiddetti oneri di sistema e della componente legata alle rinnovabili, perché fortunatamente il prezzo del gas, soprattutto nel cosiddetto mercato spot, cioè quello che si fa giorno per giorno, libero mercato, non i contratti di lungo termine, il prezzo del gas è sceso e l'Italia si è allineata grosso modo al costo del gas dei paesi europei, degli altri paesi europei. Grazie al presidente di Assoelettrica, Chicco Testa. Grazie a voi, buona serata, buon lavoro. Grazie. E intanto la borsa festeggia, paradosso, non paradosso, più 2,21% oggi, più 40% da inizio anno, più da luglio, più 70% sui bancari. Beh, cerchiamo di scoprirlo dopo il traffico. Strade in diretta. Traffico della sera sulle strade, in direzione Roma sull'autostrada A24 la circolazione risente di un incidente tra Castel Madama e Tivoli, molti veicoli in viaggio in uscita da Milano lungo il tratto urbano dell'A4 in direzione Brescia, più ad est proseguendo le code tra Bergamo e Seriate sono per materiali dispersi. Attenzione sulla A3 Salerno-Reggio Calabria, c'è un auto articolato fermo in panne nei pressi di Lauria Nord in direzione Salerno, prudenza per un altro veicolo in panne in entrata a Potenza sul raccordo Sicignano-Potenza. Torniamo tra mezz'ora. Focus Economia. È ancora presto per dire che la crisi sui mercati finanziari è ormai un ricordo, ma insomma dobbiamo registrare, come dicevamo, un andamento di Piazza Affari assolutamente in recupero. È vero che era ai minimi a luglio. E allora parliamo di questo. Eh sì, è uno strano mondo quello che stiamo raccontando, perché insomma parliamo della crisi dei consumi mai così bassi dal dopoguerra, dell'aumento della farina, del crollo delle vendite di pesce, dei dati sulla disoccupazione drammatico di ieri. E poi ci giriamo dall'altra parte, vediamo che Piazza Affari, la borsa di Milano, è tornata praticamente sui massimi dal marzo dell'anno scorso, superando i 17.000 punti. Addirittura rispetto ai minimi di fine luglio, la borsa di Milano è a un più 40%. Addirittura, se uno avesse investito in titoli bancari, l'indice di settore ha fatto più 73%. Che cosa è successo? Beh, una cosa è successa: lo spread era a 545 punti contro i 270 di adesso, lo scorso 26 luglio, quando, complice l'incapacità dei paesi europei di mettersi d'accordo, i mercati erano tornati a scommettere che dopo la Grecia, il Portogallo e l'Irlanda sarebbe stata la volta della Spagna e poi dell'Italia. E lo scorso 26 luglio, con una frase ormai celebre, "The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro and believe me, it will be enough", che Mario Draghi pronuncia molto meglio di me, Draghi ha detto in sostanza: sappiate, a chi sta speculando contro l'euro, che la Banca Centrale Europea farà tutto quello che può fare per mantenere l'euro, e vi assicuro che sarà abbastanza. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Da quel giorno lo spread italiano è calato di 265 punti in meno, cioè quanto costa noi indebitarci rispetto a quanto non costi la Germania. Quello spagnolo, sempre rispetto alla Germania, è calato di 276 punti. Milano ha fatto più 40% contro Londra, che ha fatto più 9, Francoforte più 20, Parigi più 17, e ripeto, i titoli bancari europei hanno fatto più 70%, ma anche Madrid ha fatto più 33%. Ora è facile commentarlo dopo, chiaramente è interessante per vedere quali siano le prospettive e quali saranno le prospettive. Ecco perché torna un ospite noto in questo programma, di solito tra fine anno e inizio anno, oltre che l'astrologa, sentiamo anche investitori di professione, che fa il private banker, ossia investe soldi che raccoglie dentro aziende spesso quotate in borsa, quindi private equity in senso stretto. Giovanni Tamburi, presidente e amministratore delegato della TIP, Tamburi Investment Partners, quotata anche in borsa. Buonasera. Buonasera a voi. Dunque, è d'accordo con la nostra analisi in primo luogo, cioè è da quando Draghi ha detto farò tutto quello che è necessario e non vi preoccupate che sarà abbastanza, che i mercati hanno capito l'aria e la solfa? Assolutamente sì. Quindi il vero motivo è Draghi, dai. Il vero motivo è Draghi. Se vogliamo ripercorrere, quando ci siamo sentiti circa un anno fa, un'altra volta, pensando alle prospettive del 2012, onestamente, se Draghi avesse detto quella frase prima, dopo, o l'avesse detta qualcun altro, era chiaro che ci sarebbe stata una mossa di questo genere qui. Cioè, io personalmente, come lei sa, e qualche ascoltatore di Radio 24 ne ha sentito altre volte, può ricordare, non credevo al default, al crollo sistemico, eccetera, eccetera. Ho sempre avuto l'impressione che fosse più interesse delle economie, della politica, delle banche centrali salvare il sistema, e per cui con Draghi, che comunque è stato bravissimo e fondamentale, o senza Draghi ci saremmo in qualche modo salvati. Questo per quello che riguarda, diciamo, la fotografia del passato. Lei adesso, visto che lei come lavoro investe, mette i soldi dei risparmiatori, di gente ricca che ha tanti soldi da mettere, in aziende quotate, immagino che lei guardi i settori. Fra un po' arriviamo anche ai settori che vede più interessanti, ma siccome veniamo da una puntata in cui abbiamo raccontato la crisi dei consumi, il calo della produzione industriale, le difficoltà anche per una ripresa nel 2013, Non le appare un po' strano, cioè, che la borsa festeggi mentre il paese piange? Ma allora, bisogna sempre contestualizzare tutto. Allora, la borsa innanzitutto ha fatto pagare nei mesi e negli anni scorsi ai mercati e ai risparmiatori un prezzo più alto di quello che sarebbe stato logico. Esattamente un anno fa dicemmo queste cose e nessuno comprava azioni sul mercato italiano, sui mercati europei in generale. Chi aveva in quel momento un po' più di sangue freddo e stava un po' più distaccato da quelle che erano le raccomandazioni di tanti media, di tanti economisti, di tante banche d'affari più interessate ai fenomeni speculativi e violenti che non ai trend di lungo termine, ha comprato, ha fatto buone cose e onestamente comprare a super sconto azioni di aziende leader mondiali in quei momenti ci voleva un po' di coraggio, ma poi neanche così tanto, per cui secondo me la borsa era andata troppo giù. I consumi stanno oggi pagando una delle recessioni più importanti che abbiamo mai visto nel nostro paese negli ultimi 50 anni. Ecco, però spesso gli ascoltatori ce lo chiedono, ho capito il suo ragionamento, i titoli valevano così poco, senza motivo, perché stiamo parlando di aziende che magari esportano, aumentano il fatturato, hanno quota di mercato, che ci voleva un po' di coraggio ma anche un bel po' di raziocinio per comprare, perché non era possibile andare avanti in quel modo. Però molti ascoltatori tamburi ci chiedono, ma insomma, se il paese è in difficoltà, non è la borsa, le aziende del paese quotate in borsa, le imprese quotate in borsa dovrebbero rispecchiare questa difficoltà, oppure qui entra una variabile che, di cui spesso parliamo, che si chiama export, cioè che molti gruppi italiani sono legati ormai alla ripresa economica globale e meno a quella italiana? Allora, sicuramente entra in atto questo aspetto, chiamiamolo export. Secondo me è emblematico guardare a Fiat. In realtà Fiat come parte italiana continua ad avere dei conti brutti e nessuno più dell'auto incarna un momento in cui abbiamo una crisi di consumi e particolare di consumi di beni durevoli come l'automobile. In America con Chrysler stanno andando meglio del mercato, in Brasile stanno andando meglio del mercato, per cui le aziende brave, capaci, che hanno fatto le mosse giuste negli anni scorsi, tipo Fiat come caso per tutti, ma se ne possono citare decine, faccio un nome di beni di consumo che tutti conosciamo, la DeLonghi che fa i frullatori, che fa le macchine per il caffè, eccetera, macchine per il caffè, eccetera, stanno andando benissimo in tutte le parti del mondo, per cui l'export ha trainato. È inutile che lo dica anch'io perché lo dite voi spesso, il made in Italy dell'abbigliamento, delle calzature, di queste cose qui, ha certamente trainato buona parte d'Italia, i conti di Prada sono stati nell'ultimo trimestre i migliori di sempre, e per cui certamente il dato export è importante. Come sapete, in tutto il 2012 l'export è andato molto bene ancora per l'Italia, e per cui grazie al cielo, in questo piagnisteo generale dell'economia italiana, ci sono migliaia di aziende efficienti, che esportano, che vanno bene e che suppliscono con i consumi internazionali i consumi calanti in Italia. E qui veniamo alla parte che forse chi è in ascolto aspetta con più ansia. Tamburi, ci dia due titoli, diciamo una volta, no, ne sto scherzando, però lei in questo momento dove sta investendo, nel senso sia come settore che come area geografica, visto che poi non investe tanto solo in borsa ma compra proprio partecipazioni societari di queste imprese. Non sarebbe corretto che io facessi nomi di titoli? No, chiaramente... ma l'abbiamo mai fatto in 12 anni, non inizieremo certo ora. No, mi interessa di parlare di alcuni nei quali ho investito o stiamo investendo. Allora, innanzitutto questo, negli anni del coraggio 2011-2012 noi abbiamo speso 350 milioni di euro. Voi come Tamburi Investment Partners? Essenzialmente sul mercato italiano, per cui secondo me un primo conforto da risparmiatori è nervi saldi, poca attenzione ai titoli dei giornali, più attenzione ai contenuti dell'articolo, perché tante volte il titolo ti mette paura ma il contenuto è più cauto, e per cui queste cose vanno tenute sempre molto ben presenti. Cosa fare oggi? Innanzitutto, i dati che lei ha dato prima di rimbalzo delle banche, di rimbalzo dei mercati in generale, guidato essenzialmente ai titoli finanziari, non dicono una cosa che secondo me è fondamentale: le aziende industriali sono state per il momento molto indietro rispetto alle aziende finanziarie e alle banche europee. Per cui la prima cosa che guarderei è il settore industriale, nel senso che erano andate molto giù le banche e la gente le sta cominciando a ricomprare, erano andate meno giù, ma comunque molto giù, anche le aziende industriali, e adesso sono rimaste indietro. Qui la prima cosa che secondo me un risparmiatore oggi deve porsi è aziende industriali buone. Secondo aspetto, di quali aziende industriali buone? Esatto, di quali settori? Esportatrici, leader di mercato con un prodotto o un marchio o una tecnologia vincenti. E ci vuole poco, nel senso che marchi importanti, tecnologie vincenti, aziende leader, solo sul listino del mercato italiano ci saranno 50 o 100, basta prendere quelle lì, se non voglio, ripeto, fare il nome di una o dell'altra, ma quello si trova facilmente. Ma c'è qualche settore in particolare? Perché io, è chiaro che se un'azienda, se un gruppo aumenta il fatturato, aumenta l'utile, le quote di mercato, vabbè. Però c'è qualche settore da cui lei starebbe più lontano in questo momento? Starei lontano dall'energia. Energia? Starei lontano dall'energia perché l'energia è stata molto moda, è stata molto difesa, per cui starei lontano da quello. E andrei su appunto più titoli tecnologici, cioè aziende che hanno un prodotto che tecnologicamente è più avanti degli altri. Ma è per quello che riguarda invece mondo consumi alimentare, lusso, perché il lusso molto ha tenuto in questi anni. Lusso va ancora bene, andrà ancora bene, e per cui lì non c'è la tecnologia, c'è il marchio, ma quello guiderà ancora anni buoni, perché i consumatori brasiliani, indiani, cinesi, americani, russi continueranno a comprare prodotti del Made in Italy, del lusso, e per cui io vedo tecnologia e lusso come i due grandi driver dei prossimi 3, 4, 5 anni. Non solo, ma vedo un'altra cosa, che siccome in questa grande selezione, che forse è la prima selezione che i mercati stanno facendo dal dopoguerra, si affermeranno le aziende più forti. Per cui le aziende più forti cresceranno più velocemente della crescita dei rispettivi settori, perché altre aziende moriranno, quelle del private equity che ha messo tanto debito, quelle di conglomerate che hanno investito poco, quelli che hanno fatto, diciamo, degli errori finanziari o commerciali di vario tipo, e pertanto ci sono molte aziende, e noi per fortuna siamo investiti in molte di queste, che pur non facendo in questo momento tantissimo, avendo magari fatto negli ultimi 2 o 3 anni, stanno beneficiando di quote di mercato che le vengono regalate dal concorrente che muore, dal concorrente che salta in aria. Sì. Cioè, in questa selezione il concorrente che muore poi regala quote di mercato e fa crescere più velocemente del previsto le altre. In una battuta, tamburi, perché siamo in conclusione, mi dà una previsione sul 2013, è sempre difficile, però così come l'abbiamo chiesto all'astrologa lo chiediamo anche a lei. I mercati finanziari? Mm-hmm. Milano soprattutto. Più 15, più 20 a fine anno. Così tanto? Sì. Poi veniamo a richiamarle a fine anno? Beh, l'anno scorso ero controcorrente rispetto a tutti i vostri, non solo l'astrologa, tutti quanti. Ho detto l'anno sarà buono, non vi preoccupate, investite. Ho detto più o meno le stesse cose che ho detto oggi e tantissimo non credo di esservi sbagliato. Poi insomma, lei mi conosce da troppi anni e sa che non saremmo qui se avessi detto delle stupidaggini. No, no, ma lei ha anche ammesso, lo dico perché lo ricordo molto bene, anni fa quando si sbagliò, disse ho sbagliato e basta. Noi apprezziamo sempre questo, va bene tamburi, vedremo se avrà ragione lei e poi magari organizziamo anche un pellegrinaggio dove abita a questo punto. Grazie al presidente, mister Gatto della Tamburi Investment Partners, Giovanni Tamburi. Grazie a voi, arrivederci. E grazie a tutti voi in ascolto, un auguro di buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.